Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Borse ancora nervose, ancora vendite su Monte dei Paschi, che perde quasi il 9%. L'Italia tratta con Bruxelles una soluzione per le banche. Inchiesta sulle tangenti a Roma, spunta l'assunzione del fratello di Alfano. Alle Poste il ministro replica, uso politico di scarti d'indagine. Un fermo per lo studente americano ucciso e gettato nel Tevere. Il sospettato è un uomo di 40 anni, romano, senza fissa dimora. Biglietti gratis per il concerto di Springsteen a consiglieri e assessori del Comune di Milano. Si riapre il caso, una norma che non si riesce a cancellare. L'Agenzia per la riscossione siciliana invia cartelle esattoriali a 133 comuni. Catania la più morosa, mancati pagamenti per 19 milioni di euro. Prosegue l'epopea della frana di Arenzano sull'Aurelia. Finalmente si apre il cantiere, ma non ci lavora alcun operaio. La vicenda si trascina da 4 mesi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Se ci volete scrivere, effettogiorno@radio24.it, il 349-238-6666 per i vostri sms. Oggi abbiamo qualche problema su WhatsApp, lo faremo ripristinare al più presto. In apertura dunque torniamo a parlare della situazione delle banche italiane, riflettori puntati su MPS. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buongiorno Marco. Sì, buongiorno a voi. Allora, ancora una giornata difficile per il titolo, quale soluzione si intravede? Sì, una giornata difficile, mentre continua la trattativa a quanto risulta tra il governo e Bruxelles, quindi la Commissione europea, sul possibile intervento dello Stato nel capitale del Monte dei Paschi. Oggi la banca vale meno di 1 miliardo e questo dà la misura di quanto sia, di quale sia la percezione del mercato rispetto alla banca. Il governo vorrebbe poter iniettare risorse pubbliche ed effettivamente uno spiraglio nella normativa, la direttiva europea sul bail-in c'è, nel senso che si prevede che gli stati possano iniettare risorse nel caso in cui le banche possano essere bocciate nel corso di un esame europeo. L'esame è in corso, a fine luglio ci saranno le pagelle dei nuovi stress test che dovrebbero vedere, in base alle anticipazioni, una bocciatura del monte. Vedremo dunque cosa succederà. Intanto io ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando per questo aggiornamento. Come si diceva, Monte dei Paschi in questo momento perde l'8,36%, mentre vanno bene in realtà le altre banche, con Unicredit che guadagna il 6%, la Popolare di Milano il 4,6%, Ubibanca il 4% e Milano che cede lo 0,11% in un quadro di borse europee però maggiormente negativo. Su questo torneremo più avanti, come sempre alle 13:30 nel nostro appuntamento con i mercati, ma veniamo a quelle che sono le trattative più generali dell'esecutivo con Bruxelles, che riguardano tutto il settore bancario. Le banche italiane sono sotto i riflettori e con loro le mosse che Palazzo Chigi sta studiando con Bruxelles. Renzi cerca di raggirare le regole europee per salvare il settore bancario con fondi pubblici, scriveva ieri il Financial Times. Ricostruzione poi smentita. La Süddeutsche Zeitung parla invece della preoccupazione del governo tedesco, disponibile però a trovare un compromesso con l'Italia. Le norme concedono spazi di manovra, ripetono da Berlino, Bruxelles e BCE. Roma vuole risparmiare gli investitori privati, chiamati in causa dalla direttiva sul bail-in. Le trattative sono serrate e il tempo stringe. A fine luglio l'EBA, l'autorità bancaria europea, annuncerà i risultati degli stress test che misurano la solidità delle banche europee nel caso di scenari avversi. Rispetto a 2 anni fa, quest'anno non ci saranno promossi o bocciati e non sono previsti interventi immediati da parte delle autorità, ci spiega Mario Quagliariello, capo della divisione analisi rischi dell'EBA, ma ci potranno essere delle eccezioni. Ovviamente potrebbero esserci, almeno in astratto, situazioni in cui alcune banche risultano particolarmente deboli già a fine luglio sulla base dei risultati dello stress test, quello che nella normativa viene definito una minaccia imminente per le banche di violare i requisiti minimi patrimoniali, e in questo caso le autorità competenti possono decidere di reagire e chiedere misure correttive immediatamente. In caso di risultati negativi, dunque, la BCE potrebbe chiedere comunque interventi sul capitale. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tutte tensioni quelle sulle banche italiane che si sono riacutizzate dopo il voto della Gran Bretagna per l'uscita dall'Unione Europea. Brexit, l'estate dell'incertezza. E prosegue dunque il nostro appuntamento con Brexit, l'estate dell'incertezza, lo speciale quotidiano del Sole 24 Ore di 4 pagine dedicato ai vari aspetti anche pratici e ai rischi per i mercati. Oggi si parla molto di porti sicuri e di beni rifugio, a partire dall'oro. Il servizio sul Sole 24 Ore lo firma Andrea Gennai, proprio sull'oro. Andrea, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. In realtà la tendenza ad acquistare oro non è di oggi, per così dire, non è di subito dopo il referendum sulla Brexit, no? No, diciamo che questo 2016 è partito alla grande per l'oro dopo 5 anni di grandissime difficoltà. Sembra che sia l'anno buono, l'oro sta guadagnando il 25% da inizio anno, e diciamo che la Brexit ha solo accelerato una tendenza che era almeno in corso da gennaio e febbraio, quando ci fu il violento ribasso sui mercati azionari. Quindi diciamo nulla di nuovo da un certo punto di vista per quanto riguarda il metallo giallo. L'obiettivo, appunto, è cercare di proteggersi dai rischi, no? Sì, diciamo che l'oro ovviamente in questa fase appare molto attrattivo, perché sale, insomma, uno strumento finanziario che guadagna il 25% comunque può attirare l'appeal degli investitori. Sicuramente è uno strumento da maneggiare con grande cura, perché sebbene sia un bene rifugio, non bisogna dimenticarci che ha perso il 40% tra il 2011 e il 2016. Quindi, come tutti gli strumenti finanziari, va gestito in un'ottica di diversificazione, con grande attenzione, con grande prudenza, dedicando una quota marginale al proprio portafoglio. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Gennai. Tutti i dettagli e anche altri servizi li trovate sul Sole 24 Ore oggi in edicola. Ci spostiamo a Dacca, stanno rientrando le salme degli italiani uccisi negli attentati e ci sono aggiornamenti sulle indagini. Sulla pista di Ciampino ci sarà anche il presidente della Repubblica Mattarella di rientro dal Messico. L'aereo di Stato con a bordo le salme delle 9 vittime italiane uccise nell'attentato di Dacca atterrerà tra le 18 e le 19. A bordo anche il vice ministro degli esteri Mario Giro, il sopravvissuto alla strage Gianni Boschetti e anche Gennaro Cotugno, l'italiano dato a lungo per disperso e per fortuna trovato vivo. Stavo poco bene, altrimenti sarei stato al ristorante lì anch'io, ma a Dacca non torno più, dice. Giunti intanto in Giappone i corpi senza vita dei 7 giapponesi uccisi durante l'attacco, accolti dal ministro degli esteri Fumio Kishida, che ha deposto una corona di fiori sulle bare dopo un profondo inchino seguito da un minuto di silenzio. Intanto sul fronte delle indagini emergono altre notizie. La più clamorosa è che la polizia avrebbe ucciso uno degli ostaggi di Dacca per errore, convinta che fosse uno dei terroristi. Notizia ancora non confermata, e secondo alcune indiscrezioni non si tratterebbe di un cittadino italiano né di un giapponese, ma di un bengalese. La polizia avrebbe invece ancora 2 persone in custodia, una delle quali l'attentatore sopravvissuto, mentre si indaga su altri 4 ex ostaggi fermati e tuttora sotto interrogatorio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. La pagina politica con due fronti: da una parte Silvio Berlusconi che esce dall'ospedale e dall'altra la giunta Raggi che fatica ad essere composta. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, allora intanto parliamo della direzione del PD, perché interviene Maria Elena Boschi, la ministra federissima del premier Matteo Renzi, proprio sul referendum, e dice bisogna fare una scelta, si vota sì, si vota no, e anche l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che auspica che i cittadini non facciano finire nel nulla gli sforzi messi in atto dal Parlamento. Nel centrodestra invece, come accennavi tu Simone, Silvio Berlusconi lascia l'ospedale. Allora sentiamo quanto ha detto l'ex cavaliere. È stata una prova molto dolorosa, molto. Non credevo di dover affrontare tanto male. Comunque adesso mi sento un po' meglio, mi aspettano 2 mesi di rieducazione e poi spero di poter essere ancora utile all'Italia e agli italiani in qualche modo. E di politica parla invece il figlio di Berlusconi, Pier Silvio, che chiede al governo di darsi una mossa. Meno TV, dice l'amministratore delegato di Mediaset, più attenzione alla pressione fiscale e alla riduzione della spesa pubblica. Nei 5 Stelle invece tiene ancora banco lo scontro interno sulle nomine per la giunta della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e sarebbe calato il gelo tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Il fondatore ha chiamato Raggi per chiedere di fare un passo indietro sulle nomine di Daniele Frongia, capo di gabinetto, e di Raffaele Marra come suo vice. Nomine sgradite agli ortodossi del Movimento 5 Stelle. Frongia, per incompatibilità prevista dalla legge Severino tra una nomina amministrativa ed un politico. Marra invece, il problema è il lavoro con Gianni Animano e Renata Polverini in passato, uno sgarbo nei confronti di Di Maio, che aveva dichiarato non abbiamo pregiudizio su chi ha lavorato in altre amministrazioni. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. E c'è una grana giudiziaria che potrebbe presto trasformarsi in una grana politica, l'inchiesta sulle tangenti a Roma, e anzi forse già si sta tramutando in una grana politica. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, un'inchiesta in cui si sente il fruscio dei soldi ma anche l'odore del potere, come accennavi negli atti appunto di questa inchiesta che racconta l'ultimo labirinto di Roma. Si sentono nomi di politici come Marotta, di generale come Manenti, di banchieri come il braccio destro di Ponzellini, di direttori di importanti società pubbliche come Crecco, già all'Inps, e si sente nelle intercettazioni pure il nome del ministro dell'Interno, perché quest'ultima cricca che ieri ha portato a 24 arresti era capace di trovare un lavoro alle Poste pure al fratello di Angelino Alfano, Alessandro. Angelino lo considero per bene, un amico, se posso gli do una mano, racconta intercettato il regista di questo labirinto, Raffaele Pizza, prima di protestare per le lamentele di quest'ultimo Alfano per uno stipendio passato da 160 da 170 mila euro. C'è un uso politico di scarti d'inchiesta, reagisce il titolare del Viminale, che sottolinea come i magistrati non abbiano ritenuto di coinvolgerlo in alcun modo. Come sempre nell'indagine su Faccendieri e Cricche, la fase 2 consisterà ora nella separazione dal vero dalle millanterie registrate nelle conversazioni, ma mentre gli atti consegnano altri dettagli di questa Roma di intrallazzi, i 5 Stelle già chiedono al ministro Alfano di spiegare in Parlamento. E per ora è tutto. E grazie dunque Raffaella Calandra con il ministro Alfano, come si diceva, che dice siamo di fronte al riuso politico degli scarti di un'inchiesta giudiziaria. Queste le sue parole. Noi restiamo a Roma per tutt'altra inchiesta, quella su Mafia Capitale e in particolare sul processo. Oggi Daniele Biacchesi, nella sua analisi del martedì, ci parla delle minacce. Nelle ore in cui viene scoperta la nuova tangentopoli romana nei ministeri, è entrato nel vivo il processo contro la banda di Mafia Capitale, che faceva riferimento a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Nell'aula del Tribunale di Roma si avverte un clima di forte intimidazione che grava pesantemente sui testimoni. Filippo Maria Macchi, vittima di usura della banda, è apparso davanti ai giudici reticente e intimidito, tanto che la presidente della corte ha disposto per la prima volta che lo schermo video in cui si vedono i detenuti Carminati, Brugia e Buzzi fosse girato in modo tale che il test non li potesse neanche vedere. Il super testimone Roberto Grilli ha ritrattato le accuse contro il capo di Mafia Capitale. Lo stesso avvocato che difende Carminati in più occasioni ha attaccato i carabinieri che hanno condotto per mesi le indagini. E tutto accade mentre nel silenzio generale sfilano oltre 1000 testimoni. Sono politici, uomini delle istituzioni e professionisti. Si tratta dunque di un dibattimento che i media dovrebbero seguire con più attenzione, perché udienza dopo udienza emergono i rami della mala pianta criminale e le sue contaminazioni politiche e le protezioni a livello istituzionale. E noi restiamo a Roma per una vicenda invece di cronaca nera, l'assassinio dello studente americano. C'è stato un fermo. Si chiama Massimo Galiotto, è un romano senza fissa dimora di 41 anni, l'uomo fermato con l'accusa di omicidio aggravato per la morte di Bo Solomon, lo studente americano di 19 anni, trovato morto ieri nel Tevere, a Roma. Solomon era scomparso giovedì notte mentre si trovava in un bar con alcuni coetanei. Si era allontanato per andare in bagno, ma non è più tornato. Ieri mattina il ritrovamento del corpo, una ferita alla testa, senza portafogli, senza cellulare. Dalla sua carta di credito. In questi giorni sono stati prelevati 1.500 euro. Per questo si è subito pensato a un'aggressione a scopo di rapina. Stamattina la svolta. Originario del Wisconsin, il giovane americano era atterrato pochi giorni fa nella capitale. Era conosciuto nel suo paese perché già da bambino aveva dovuto affrontare una brutta malattia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla morte del grande regista Chiarostami. Ha perso la sua battaglia contro il cancro a Parigi, dove si stava curando, il grande regista iraniano Abbas Chiarostami. Era nato a Teheran nel 1940 e aveva scelto di rimanere in Iran anche dopo la rivoluzione islamica del 1979. Solo nel 2005, dopo l'avvento al potere del regime ultraconservatore di Mahmoud Ahmadinejad, aveva deciso di lasciare il suo paese per girare fuori dall'Iran. Cominciò con Tickets in 3 episodi, diretto insieme a Dulmia Ken Loach nel 2005. Nel 2009 invece invece fu la volta di Copia Conforme, girato in Toscana tra Lucignano e Cortona, con Juliette Binoche, premiata poi a Cannes nel 2010. L'ex sindaco di Lucignano, Maurizio Seri, gli conferì la cittadinanza onoraria. In occasione della cittadinanza onoraria che gli abbiamo tributato nel 2011, lui con estrema semplicità è tornato a Lucignano, si è messo a disposizione di tutti. Come sono tutti grandi, ecco, i grandi sono poi le persone più semplici e più umili. Nella sua carriera, Kiarostami ha diretto oltre 40 film ed è incalcolabile la sua influenza sulle nuove generazioni del cinema iraniano. Il suo capolavoro indiscusso è Il sapore della ciliegia, con il quale nel 1997 vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra un attimo andremo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo con il nostro giro per l'Italia. I primi punti sulle mappe li metteremo sulla nostra mappa che trovate sul sito www.radio24.it e li metteremo a Catania, che insieme ad altri 133 comuni ha ricevuto una cartella, siciliani, ha ricevuto una cartella esattoriale, è la più morosa, deve 19 milioni di euro. Poi andremo nei dintorni di Cuneo per parlare con due fratelli gemelli, due fratelli che sono dei campioni di corsa in montagna. Ieri uno ha ceduto il passo all'altro proprio sul traguardo, una bella storia che vi vogliamo raccontare. Ma prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, vogliamo farvi sentire un audio parlando di europei, quello dell'accoglienza in patria al ritorno della nazionale islandese. Ora immaginatevi un prato nella capitale islandese, a Reykjavik, stracolmo di gente. Tutta gente che insieme fa questo. Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di banche, della trattativa tra l'Italia e Bruxelles, di Monte dei Paschi che è ancora ampiamente negativo, perde in questo momento l'8,4%. Abbiamo parlato dell'inchiesta sulle tangenti a Roma e dell'assunzione del fratello del ministro Alfano alle poste. Abbiamo parlato del fermo per lo studente americano ucciso e gettato nel Tevere. Abbiamo parlato delle vittime dei terroristi a Dacca. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo mettendo il nostro primo punto sulla mappa che trovate sul sito www.radio24.it a Catania. Abbiamo in linea con noi Giuseppe Girlando, che è l'assessore al bilancio. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. Allora, il quotidiano La Sicilia oggi cita un report di Riscossione Sicilia, che è la società che si occupa appunto della riscossione dei tributi nella regione, secondo il quale sono state inviate 133 cartelle esattoriali ai comuni siciliani, quindi non ai cittadini ma ai comuni siciliani, per mancati pagamenti per esempio di IMU e di altre tasse. Complessivamente sono 43 milioni di euro. Si scopre che Catania è la più morosa, per così dire, 19 milioni di euro dovuti. Che succede, Girlando? Ha detto addirittura il presidente di Riscossione Sicilia che insomma chiederà di dichiarare il dissesto finanziario del comune di Catania. Io devo dire, ho risposto garbatamente alla Riscossione Sicilia dicendo che se un comune va in dissesto è colpa di Riscossione Sicilia, ma non perché ci chiede il dissesto da mancato pagamento, ma perché non riscuote le imposte che deve riscuotere. L'obiettivo, la missione di Riscossione Sicilia è incassare i tributi locali, degli enti locali, che oggi si reggono solo sulle entrate proprie. Bene, sa quante sono le cartelle che ha Riscossione Sicilia da carico del Comune di Catania? Sono 300 milioni. Di questi 300 milioni, che risalgono al 2013, negli ultimi anni abbiamo ricevuto molto poco, ben poco. Quanto, quindi, diciamo, quanto, assessore, quanto? so, qualche milione, forse meno, forse non ci arriviamo. Quindi allora il vero problema è la missione che vuole svolgere in Sicilia, se è quello di partner principale degli enti locali o di nemico principale degli enti locali. Devo dire che questo dovrebbe interessare molto la regione Sicilia, che è il controllore al 100%. Lei dice, Gerlando, il punto è questo: finché Riscossione Sicilia non riscuote quello che deve riscuotere per conto nostro, e quindi raccogliere il denaro sostanzialmente che i cittadini ci devono, finché non fa quello, i 19 milioni che noi dobbiamo se li può scordare. No, questo no, perché peraltro la vicenda si tratta di tributi nazionali, erariali, statali. Il Comune di Catania ha un credito IVA di oltre 20 milioni, quindi ci sono delle contestazioni in ordine alla compensazione o meno dell'importo. Quindi diciamo non è una mancanza di volontà, ma avendo un credito di 20 milioni di IVA è ovvio che facciamo valere questa compensazione. Peraltro devo dire che una parte importante di questo credito, circa 5 milioni, è un paradosso dello Stato italiano, perché si tratta del canone figurativo del Palazzo di Giustizia. Lei deve sapere che fino a 2 anni fa i comuni erano obbligati a pagare un fitto allo Stato per l'immobile del Comune di Catania, sicuramente per il Palazzo Giustizia, e poi avrebbero dovuto avere rimborso integrale, invece il rimborso era solo del 25%, quindi noi subivamo mi faccia capire, perché questo è un altro punto interessante, perché questo paese è sempre questo paese è sempre curioso. Quindi mi faccia capire, il comune deve pagare l'affitto del Palazzo di Giustizia fino al 2015, poi nel settembre 2015 è cambiata la legge. Su base di che cosa? Il Palazzo di Giustizia? Era una legge del 1941 che stabiliva che le spese di manutenzione e affrontamento dell'edilizia giudiziaria per comodità erano a carico dei comuni, che poi venivano rimborsati a fine anno da parte dello Stato. Cosa che non è avvenuta. No, se non che poi, specialmente dopo la spending review, lo Stato questo capitolo l'ha ridotto, per cui invece di essere un rimborso integrale è diventato un rimborso nei limiti della capacità del capitolo, per cui è diventato un indennizzo del 20%. Quindi è stata una stangata perfetta, ecco. Da un lato eravamo obbligati a pagarla al 100% e poi ci veniva rimborsato. Lo stesso Stato, ecco, ci guadagnava all'80%. Vabbè, ma questa è una piccola cosa. La cosa importante è che in realtà quello che è accaduto e che sta accadendo è che Riscossione Sicilia deve svolgere il suo ruolo principale, che è quello di incassare le entrate dei comuni. Ormai i comuni non ricevono più, ricevono solo in misura ridotta i trasferimenti statali, si reggono con le entrate proprie. Se non funziona l'agente di riscossione, i comuni saltano. La ringrazio, grazie Giuseppe Gerlando, assessore al bilancio del Comune di Catania. E adesso vi vogliamo raccontare una storia. Il prossimo punto sulla mappa lo mettiamo nei dintorni di Cuneo. Vi vogliamo raccontare una storia che è ripresa oggi con ampio spazio dal quotidiano La Stampa, ed è la storia di due gemelli che si chiamano Martin e Bernard De Matteis, e sono entrambi al telefono con noi. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno a tutti, salve. Buongiorno, eccoci qua. Allora, qual è la loro storia? Esiste una disciplina sportiva che è la corsa in montagna, nella quale Martin e Bernard sono due campioni, quantomeno a livello europeo, non so, anche a livello mondiale. Facciamo che mi risponde uno per volta. Bernard. Diciamo che a livello europeo sicuramente siamo tra i più forti, anche a livello mondiale. L'anno scorso io sono arrivato secondo al campionato del mondo in Galles, dietro a un ragazzo africano, a un ugandese, perché nell'atletica si sa che i ragazzi africani vanno molto forte. Quindi sì, diciamo che siamo ai vertici di questa specialità. Siamo ai vertici di questa specialità come italiani. Ci sono stati i campionati europei domenica, e a un certo punto è successo questo, e partirei proprio da Bernard e rimarrei su Bernard, perché è successo questo, che a un certo punto lei era in testa, dietro di lei c'era suo fratello e lei gli ha ceduto il passo. Ma sì, vabbè, questa forse più che una storia sportiva è una storia umana, nel senso non ho seguito il mio istinto e quello che mi diceva di fare il mio cuore, e diciamo che io ero in testa una ventina di secondi davanti a mio fratello. I campionati europei erano in Italia, ad Arco di Trento, quindi molto sentiti, molto seguiti, Io forse anche nel senso, senza pensarci, ho aspettato mio fratello Martin, che poi magari ve lo dirà lui, ma l'anno scorso ha perso il figlio Matteo, che aveva 11 mesi, ed è stato, senza pensarci, l'ho lasciato, cioè abbiamo fatto il tutto il rettilineo finale per mano insieme. Poi purtroppo non si può arrivare per mano, perché non esiste, cioè, ti squalificano, non esiste l'oro ex aequo, allora uno dei due deve arrivare primo, e io ho lasciato, gli ho dato una pacca sulla spalla, e lui ha vinto, io sono arrivato secondo, anche a dimostrare che nella vita ci sono cose più importanti della semplice vittoria sportiva. Ma Martin, come si è sentito quando suo fratello l'ha fatta passare? La prima reazione ho detto ma sei fuori di testa, sei troppo bravo e non dovevi farlo, perché veramente mio fratello si è dimostrato un grande campione. Ma perché, mi scusi Martin, Bernardi in realtà è il più forte, no? Più forte di fratello in queste tipologie di gare, sì, sul piano forse vado più forte io, però non vuol dire niente. No, in questo, ieri il sabato era più forte lui e mi ha aspettato, e lui ha un grande cuore, perché negli ultimi periodi io ho avuto nella vita privata delle difficoltà, e questo lui me l'ha riconosciuto e mi ha fatto arrivare primo, perché come se volesse simboleggiare una rinascita, una ripartenza verso qualcosa di bello e verso una nuova felicità, e questo glielo devo a lui, perché altrimenti io sarei arrivato secondo. Invece mi ha aspettato, abbiamo fatto l'ultimo rettilineo tutti insieme con le ali di folla che ci tifavano, e nella commozione generale siamo arrivati insieme, io ho tagliato il traguardo 2 metri prima, ma la cosa bella è che per noi che siamo gemelli è come se avessimo vinto insieme, insomma. Questo vale per noi, è la cosa più bella. E che poi, tra l'altro, mi sembra di aver capito, Mattia, che non è la prima volta che arrivate primo e secondo. No, no, è vero. No, all'Europeo non era mai successo a una gara così importante. È successo ai campionati italiani, che sono gare più facili, cioè ci sono solo gli italiani, dunque un po' minori. Però in una gara così importante era la prima volta, e per noi anche storico come risultato. Lei non aveva mai vinto l'oro? Io non ho mai vinto l'oro, mio fratello aveva già vinto 2 volte invece, perché è veramente forte, e allora mi ha lasciato vincere, così adesso siamo 2-1, no, a parte quello, però io ho vinto un argento e un bronzo individuale, lui ha vinto 2 ori e adesso io ho anche un oro. Bernard, al prossimo giro tocca farlo passare un'altra volta, perché così siete 2-2 e fate la bella all'Europeo successivo. No, dai, diciamo che appunto non proprio il motivo per cui l'ho fatto è quello degli albidori, nel senso, quindi è anche proprio, cioè io non l'ho fatto in modo istintivo, non ci ho ragionato, tanti mi hanno chiesto ma l'avevi pensata, no, mi è venuta dal cuore, forse appunto ho ascoltato le emozioni e forse il messaggio che passa da questa vicenda è che cioè, ci sono cose, come ho detto prima, più importanti nella vita del semplice successo sportivo o lavorativo, diciamo che la vita è qualcosa di più. E quindi, sono contento. Bene. Per noi poter essere anche intervistati da una radio nazionale come Radio 24 e far sentire anche la nostra voce e raccontare la nostra storia alla gente. Allora, Bernard Martin De Matteis, grazie per essere stati con noi, in bocca grazie al lupo, in bocca al lupo per il vostro futuro sportivo. Noi adesso ci fermiamo, e non solo per quello sportivo naturalmente, anzi, soprattutto per il resto del futuro, insomma. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, come sempre. Nella seconda parte della trasmissione riprenderemo il nostro giro per l'Italia e lo riprenderemo da Milano, dove c'è tutta una vicenda che riguarda i biglietti gratis per gli eventi e per le partite che ricevono i consiglieri comunali automaticamente e gli assessori su richiesta. Si è ricominciato, questa volta col concerto di Springsteen, si sta cercando di fare chiarezza e di risolvere il problema. E poi torneremo ad una storia della quale ci occupiamo ormai costantemente, è una nostra fissazione e però è un altro tipico esempio di cose che in Italia non funzionano un granché bene, la frana ad Arenzano sull'Aurelia. Finalmente sono partiti i cantieri dopo 4 mesi, ma non ci sono gli operai a lavorare. Ci fermiamo e ci ritroviamo tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: le borse ancora nervose, ancora vendite su Monte dei Paschi che perde quasi il 9%, l'Italia intanto tratta con Bruxelles una soluzione più generale per le banche. L'inchiesta sulle tangenti a Roma spunta l'assunzione del fratello di Alfano alle Poste, il ministro replica, è un uso politico di scarti di indagine. C'è un fermo per lo studente americano ucciso e gettato nel Tevere, il sospettato un uomo di 40 anni romano senza fissa dimora. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo per mettere il prossimo punto sulla mappa a Milano. È una vicenda che in realtà non riguarda solamente il capoluogo lombardo. Qualcuno ricorderà che ci furono grandi polemiche nell'autunno scorso a Napoli. Cosa succede? Ci sono consiglieri, prevalentemente consiglieri comunali, e poi gli assessori su richiesta che possono ottenere e ottengono gratis i biglietti per le partite e per eventi. E l'ultimo caso a Milano ha riguardato il concerto di Bruce Springsteen. I biglietti sono andati a 3 assessori e poi a tutti i consiglieri comunali. E queste sono leggi che è difficilissimo cambiare, perché poi quando si arriva in consiglio comunale non c'è nessuno che vota per togliersi il biglietto della partita o il biglietto del concerto. Lorenzo Lipparini è assessore alla partecipazione del Comune di Milano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E anche ben insediato, tutto sommato, che è da poco che là. Allora, Lipparini, come funziona questa cosa? Ce la spiega? Ma innanzitutto si tratta di una convenzione tra il comune, che è il proprietario dello stadio di San Siro, dove avvengono tutti gli eventi sportivi, ma anche culturali, e i gestori che ci fanno le partite di calcio, ma anche i concerti nella stagione estiva. Quindi ci sono dei biglietti che vengono messi a disposizione della pubblica amministrazione, che poi decide di suddividere tra i consiglieri, gli assessorati, ma non solo, e che in questo momento possono essere richiesti dagli assessorati, che poi possono gestire internamente, e invece vengono consegnati direttamente a tutti i consiglieri comunali, che poi insomma in alcuni casi li tengono. Ma per sé. Quanti? Due a testa per allora, i consiglieri? Sono due a testa per ogni consigliere comunale, e invece un numero variabile che può essere richiesto per gli assessorati. È chiaramente una cosa arcaica, arcaica, è che la città fatica a capire. L'innovazione che vorremmo portare e che stiamo già studiando è quella semplicemente innanzitutto della conoscenza, perché io capisco che ci possono essere degli obiettivi istituzionali, c'è una delegazione straniera, ci sono degli interlocutori istituzionali dell'amministrazione che vogliono partecipare ad un evento, devono poterlo fare e il comune deve avere a disposizione una quota di biglietti per residenze istituzionali, ma deve essere conosciuto e quindi deve essere pubblicato online. E anche a chi vanno, e anche a chi vanno poi questi biglietti, cioè chi ci entra sostanzialmente. Assolutamente, no? Non può essere discrezione insomma di chi riceve il biglietto darlo a chi vuole, ma deve essere collegata ad un'esigenza istituzionale di mandato. Questo è poco ma sicuro. Ma mi scusi, non si può semplicemente cancellare la cosa? Cioè dico, per esigenze istituzionali, non lo so, viene un premier straniero che si vuole vedere la partita dell'Inter o la partita del Milan, e il comune per esigenze istituzionali comprerà sti biglietti. Beh, insomma, sempre che non siano già stati venduti ad altri, no, è giusto ottenere una piccola quota. La cosa che bisogna assolutamente eliminare è l'automatismo. Che non ci sia un automatismo per cui ci sono persone che hanno sempre comunque diritto ad andare lì a discrezione, piuttosto che altri che insomma devono mettersi in fila o comprarseli e fare le procedure normali. L'importante è che ci sia conoscenza, trasparenza, pubblicazione dei dati, non ci debba essere più questa grande discrezionalità, e se a un certo punto alcuni biglietti che sono dedicati al comune dovessero rimanere non assegnati, non richiesti, non venduti, uno strumento di ridistribuzione alla città, sto pensando a Onlus, un'asta di beneficenza, o addirittura ad un'asta che serva magari a raccogliere quei soldi da dare in beneficenza sui servizi pubblici. Quello poi diventa bagarinaggio, eh? Ah, vabbè, ma si fa anche questo in pubblico e si fa con delle persone che accettano. Scherzavo, magari di pagare battuta. Anche di più del valore stesso intrinseco dei biglietti, perché sanno che vanno a beneficio di servizi di beneficenza. Va bene, grazie a Lorenzo Lipparini, assessore alla partecipazione del Comune di Milano. Vedremo come andrà a finire questa vicenda e poi andiamo a una frana che abbiamo adottato, per così dire. È la frana di Arenzano sull'Aurelia, una vicenda lunghissima della quale continuiamo ad occuparci perché non se ne riesce ad uscire. È un problema soprattutto in questo periodo, nella stagione estiva, dove l'Aurelia in quel punto, e siamo in Liguria e questo è il nostro prossimo punto sulla mappa, l'unica alternativa all'autostrada. E torna da noi Maria Luisa Biorci, che è il sindaco di Arenzano. Sindaco, bentornata, eccoci. Buongiorno, grazie dell'invito e grazie di averci adottato. Sì, e poi a un certo punto quando sarà rimossa ci manderà in redazione un sasso della frana come ricordo. Trionfalmente a piedi in tutti i modi. Ad Arenzano. Senta una cosa. Allora, è finalmente aperto il cantiere, una vicenda che va avanti dal 19 marzo, da quando c'è stata questa frana, e per una serie di motivi burocratici tipici di questo paese non si è riuscito ancora a fare nulla. Aperto il cantiere, ma gli operai non ci sono, ho capito bene? No, non è vero, nel senso, questa ormai sta diventando una leggenda, quella frana di Arenzano, però ieri gli operai c'erano, hanno aperto il cantiere, hanno portato gli camion. Abbiamo individuato anche le vie per trasportare massi e quant'altro, eccetera. Chiaro che allestire un cantiere, io credo che ormai siamo talmente tutti con un livello di attenzione talmente sì. alto che ci immediatamente facevamo subito cadere i massi con anche le microcariche, eccetera, che poi è il grosso del lavoro sì. che ora ci aspetta. Devo dire che obiettivamente adesso, in quest'ultima fase, io credo che non si è perso neanche un giorno, perché ormai le cose benissimo. Sono state avviate, quindi aggiudicazione dei lavori, presa del progetto, cioè hanno commissionato tutto quello che serve per il cantiere, quindi dalle microcariche fino a tutta la strumentazione, il monitoraggio elettronico sì. dei massi, sì. insomma tutte queste cose qua. Ci dica solo questo, abbiamo pochi secondi, i tempi, sì. quando finiscono? Ma lì io credo che già che ci avete adottato ci risentiamo dopo il disgaggio dei massi, così vediamo com'è la parete dietro e a seconda di com'è la parete si può dare una prospettiva. Di riapertura. La ringrazio, grazie Maria Luisa Biorci, sindaco di Arenzano. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.